Parigi, 30 settembre 1810. Oggi a mezzogiorno Gian Battista è partito per la Svezia. Negli ultimi giorni era tanto occupato che quasi non abbiamo potuto salutarci. Il Ministero degli Esteri francese gli ha compilato una lista delle personalità svedesi che sono qui ritenute importanti. Mörner e il conte Brahe gli hanno poi spiegato chi esattamente siano costoro. Un pomeriggio si fece annunciare a casa nostra il barone Alquier. Portava un uniforme d'ambasciatore a ricami d'oro e aveva sulle labbra l'eterno sorriso dei balli di corte. Sua Maestà mi ha nominato ambasciatore di Francia a Stoccolma e prima di partire vorrei ancora rendere omaggio a Vostra Altezza Reale. Oh, non occorre che vi presentiate, ci conosciamo da più anni, disse Gian Battista tranquillo. Gli occhi gli si fecero piccoli. Eravate ambasciatore di Sua Maestà a Napoli quando venne rovesciato il governo napoletano e fu costituito un gabinetto secondo i desideri di Sua Maestà. Al che annuì sorridendo. Splendido il paesaggio intorno a Napoli. Ed eravate ambasciatore di Sua Maestà a Madrid quando il governo spagnolo fu costretto a dimettersi e venne costituito, secondo i desideri di Sua Maestà, un nuovo gabinetto, continuò Gian Battista. Una bella città, Madrid, soltanto un po' troppo calda, osservò Alchie. E così adesso venite a Stoccolma, conchiuse Gian Battista. Oh sì, una bella città, ma molto fredda, mi dicono, disse Alchie. Gian Battista alzò le spalle. Può dipendere dall'accoglienza che vi si riceve. Vi sono accoglienze calde e fredde. Alchie continuava a sorridere. Sua Maestà l'imperatore mi assicurò che Vostra Altezza Reale mi avrebbe ricevuto con molto calore, come ex compatriota, diciamo. Quando partite, Eccellenza? Il 30 settembre, Altezza. Allora arriveremo a Stoccolma insieme. Oh, che caso fortunato, Altezza. I generali raramente affidano qualche cosa al caso. E l'imperatore è prima di tutto un generale, disse Gian Battista e si alzò. Alchier dovette accomiatarsi. Due corrieri da Stoccolma hanno recato notizia dei grandi preparativi per il ricevimento. Diplomatici danesi sono venuti a visitarci e ci hanno annunciato che Copenaghen si prepara a salutare festosamente il principe ereditario di Svezia. Ogni pomeriggio è venuto da noi il pastore della comunità evangelica di Parigi per impartire a Gian Battista l'insegnamento religioso, perché Gian Battista, prima ancora del suo arrivo in Svezia e precisamente in una città marittima che si chiama Helsingør, deve convertirsi dalla fede cattolica alla evangelica e sottoscrivere in presenza dell'arcivescovo di Svezia la dichiarazione di fede di Augusta. In Svezia il protestantesimo è la religione dello Stato. Sei già stato in una chiesa evangelica, Gian Battista? Gli domandai. Sì, due volte, in Germania. È come una chiesa cattolica, soltanto mancano le immagini dei santi. Dovrò farmi evangelica anch'io, Gian Battista? Egli rifletté. Credo che non sia necessario. Tu potrai professare la fede che vorrai, ma adesso, per questo grazioso giovane pastore che mi vuole dare quotidiane lezioni di religione, non ho proprio più tempo. Intanto lui istruirà Oscar. Oscar dovrà imparare a memoria la dichiarazione di Augusta, possibilmente in svedese. Il conte Brahe potrà aiutarlo. Oscar studia la dichiarazione di Augusta in francese e in svedese. Sul comodino di Gian Battista si trovano gli elenchi dei nomi più importanti. Il cancelliere si chiama Wetterstedt. Gustavo, naturalmente. Credo che la maggior parte degli svedesi si chiamino Gustavo. Inoltre ci sono molti Löwenhielm. Uno di questi, un Karl Axel Löwenhielm, è sottolineato nell'elenco. Sarà lui che andrà ad attendere Gian Battista a Helsingør e lo accompagnerà poi come suo ciambellano a Stoccolma. Accanto al suo nome, Gian Battista ha scritto questioni di etichetta. Poi c'è il conte Toll, governatore dell'Asconia. Il ministro degli esteri si chiama von Engström e l'arcivescovo Jakob Lindholm. Ti lascio l'elenco e ti prego di imparare a memoria questi nomi con l'aiuto di Brahe, disse Gian Battista. Ma non li so pronunciare, protestai. Per esempio, come pronunci tu Löwenhielm? Neppure Gian Battista lo sapeva. Ma imparerò, tutto si impara purché si voglia, disse lui e aggiunse: Dovrai affrettare i tuoi preparativi di viaggio. Non voglio che tu e Oscar restiate qui più del necessario. Appena avrò fatto preparare le tue stanze nel castello di Stoccolma, ti metterai in viaggio, me lo prometti? Il tono era molto insistente. Io annuii. Ho poi deciso di vendere questa casa, disse pensieroso. Oh no, no, Giambattista, non mi farai questo. E lui mi guardò stupito. Ma se in seguito vorrai venire ancora a Parigi, potrai abitare da Giulia. È un lusso superfluo tenere qui questa grande casa. È casa mia, e tu non puoi così alla leggera portarmi via la casa. Se avessimo ancora la villa di papà a Marsiglia, ma non l'abbiamo più. Lasciami questa casa, Giambattista, lasciamela, implorai. Tu verrai certamente ancora a Parigi e sarai contento di avere qui la tua casa, o vorresti stare all'albergo o all'ambasciata di Svezia. Era notte avanzata. Stavamo seduti sull'orlo del letto di Giambattista, le sue valigie stavano tutte intorno pronte. Se tornerò qui proverò pena e dolore, mormorò fissando la fiamma della candela. Hai ragione, sarà meglio allora scendere qui. Ci terremo la casa, ragazzina. Questa mattina si è fermata davanti a casa nostra la grande carrozza di viaggio. Fernando stivò i bagagli e poi si piantò davanti allo sportello. Indossava sempre la sua livrea granata, ma aveva attaccati i bottoni con lo stemma reale svedese. Nell'atrio Gustavo Möhrner aspettava Giambattista. Con Oscar lo accompagnai giù per le scale. Teneva il braccio intorno alle mie spalle. Non vi era in fondo una gran differenza dalle molte altre volte, quando si era commiatato per recarsi al fronte o per andare a coprire un posto di governatore. Davanti al busto del generale Moreau, improvvisamente si fermò e fissò quel volto marmoreo. Come avevano amato la Repubblica, questi due. E adesso l'uno vive esiliato in America e l'altro è diventato principe ereditario. Mandami il busto con le altre cose mie a Stoccolma, disse Giambattista deciso. Poi abbracciò Oscar e me. Voi mi sarete garante che mia moglie e Oscar mi raggiungeranno presto, conte Brahe, disse con voce rauca. Il fatto che la mia famiglia lasci molto presto la Francia può avere un'enorme importanza, capite che cosa intendo dire? Il conte Brahe sostenne lo sguardo di Giambattista. Capisco, altezza. Poi Giambattista montò con gran fretta nella carrozza. Möhrner prese posto accanto a lui, Fernando chiuse lo sportello e si arrampicò a cassetta accanto al cocchiere. Alcuni passanti si fermarono. Un soldato invalido con le medaglie di tutte le campagne sul petto gridò: "Viva Bernadotte!" Giambattista chiuse in fretta le tendine. Helsingør, in Danimarca, nella notte dal 21 al 22 dicembre 1810. Non sapevo che le notti potessero essere così lunghe e fredde. Domani con Oscar salirò sulla nave da guerra dai molti cannoni che ci condurrà oltre il Sund in Svezia. Sbarcheremo a Helsingborg. La Svezia saluterà la principessa ereditaria Desideria e il figlio di lei, il mio bravo piccolo figlio. Maria mi ha messo nel letto quattro scaldini. Forse se scrivo la notte passerà più in fretta. Ho molte cose da aggiungere, ma ho freddo nonostante tutti gli scaldini. Vorrei piuttosto levarmi, prendere la pelliccia di zibellino di Napoleone, entrare senza far rumore nella camera di Oscar e sedermi accanto al suo letto. Vorrei prendere nella mia la sua mano e sentire il suo calore. Figlio mio, parte del mio io. Già tante volte mi sono seduta accanto al tuo letto quando mi sentivo sola, nelle molte notti quando tuo padre combatteva su qualche fronte di guerra, generalessa, marescialla, non sono stata io a volerlo, Oscar, e non avevo mai immaginato che sarebbe venuto un tempo nel quale non avrei potuto accostarmi, non impedita, al tuo letto. Ma tu non dormi più solo nella tua camera. Il colonnello Villat ci accompagna. Il fedele aiutante da molti anni di tuo padre. Tuo padre ha voluto che Villat dorma in camera tua fino a che non saremo giunti al castello reale di Stoccolma, per proteggerti, caro. Contro chi? Contro assassini, figlio mio, contro attentatori che si vergognano perché la superba Svezia è in fallimento e stanca di guerre perdute e di re mentecatti, ha eletto suo principe ereditario un qualunque signor Bernadotte. Ed erede del trono il piccolo Oscar Bernadotte, nipote di un negoziante di sete di Marsiglia. Per questo tuo padre vuole che Villat dorma nella tua camera e il giovane conte Brahe nella camera attigua. Caro, abbiamo paura degli assassini. Nella mia anticamera invece dorme Maria. Dio mio, come russa! Maria ed io abbiamo fatto tanta strada, forse troppa. Da 2 giorni la nebbia impedisce la mia traversata del Sund. Impenetrabilmente grigio sta l'avvenire davanti a me. Non sapevo che ci fossero dei paesi dove fa freddo come qui in Danimarca, eppure tutti dicono aspettate di essere in Svezia, altezza. Alla fine di ottobre abbiamo lasciato la nostra casa della Rue d'Anjou. Ho messo delle fodere di tela alle poltrone di seta e ho velato gli specchi. Poi, con Oscar, mi sono fatta condurre da Giulia a Mortefontaine per trascorrere con lei gli ultimi giorni. Ma il giovane Braha e i signori dell'ambasciata di Svezia a Parigi sembravano aspettare soltanto che io lasciassi la Francia. Solo ieri ho saputo il motivo di questa fretta, ma non potevo partire prima che Leroy consegnasse i miei abiti di cerimonia. Ero seduta con Giulia nel suo giardino autunnale e vi era odore di terra umida e calda. Le sue bambine giocavano con Oscar. Sono magre e smorte come Giulia e non hanno nulla dei Bonaparte. «Verrai presto a farmi visita a Stoccolma, Giulia?» le dissi. Ma ella alzò soltanto le spalle. «Non appena gli inglesi saranno scacciati dalla Spagna dovrò andare a Madrid. Purtroppo sono laggiù la regina». Ella mi accompagnò alle prove nel Salon di Leroy e finalmente ho potuto ordinare degli abiti bianchi. A Parigi ho sempre evitato questo colore perché Giuseppina era costantemente in bianco, ma a Stoccolma poco si sa della ex imperatrice e dei suoi abiti. Qualcuno mi ha detto che la regina Edvige Elisabetta e le sue dame si incipriano ancora i capelli. Non riesco a figurarmelo. Neppure in Svezia possono essere così arretrati. Ma, come ho detto, Brahe insisteva perché si partisse. Il 1° novembre vennero consegnati gli abiti e il 3 le carrozze da viaggio erano davanti alla porta di casa. Presi posto nella prima col colonnello Villat, col dottore, Giambattista assunto a Parigi per il viaggio un medico personale, e con l'ala flotte. Nella seconda vettura seguivano Oscar, il conte Brahe e Maria, e nella terza era stipato il nostro bagaglio. Da prima pensavo di condurre con me la lettrice, ma al solo pensiero di lasciare Parigi, ella si è messa a piangere così disperatamente che l'ho raccomandata a Giulia. Dovevo assumere una nuova lettrice. Il conte Brahe mi ha detto che la regina di Svezia ha predisposto la mia casa. Dame di corte, lettrici, cameriste. L'ala flotte invece faceva fuoco e fiamme per venire con me, perché si è innamorata del conte Brahe. Tutto ciò sembra ormai tanto lontano. Eppure non sono passate che 6 settimane. Ma in queste 6 settimane siamo state in carrozza dalla mattina alla sera e tutte le sere è stata data una festa in nostro onore. Ad Amsterdam, ad Amburgo. Abbiamo pernottato in luoghi dai nomi stranissimi, come Izehoe e Appenrade. Solo a Nyborg, in Danimarca, abbiamo soggiornato più a lungo. Di là dovevamo passare con una nave dall'isola di Funen all'isola di Zeeland, sulla quale si trova Copenaghen. Qui ci raggiunse un corriere di Napoleone. Era un giovane ufficiale di cavalleria che recava un grosso pacco e ci raggiunse proprio mentre stavamo per salire sulla nave. Aveva legato il cavallo sulla banchina e ansimante mi corse dietro col suo grosso pacco. «Ai vostri ordini, i più cordiali saluti di Sua Maestà!» Il conte Brahe ritirò l'informe pacco e Villat domandò «Non avete una lettera per Sua Altezza?» Il giovane ufficiale scosse il capo. No, semplicemente questo saluto verbale. Quando l'imperatore seppe che Sua Altezza era partita, mormorò «Orribile stagione per andare in Svezia!» e si guardò intorno. I suoi occhi caddero per caso su di me. Ebbi l'ordine di seguire Vostra Altezza e di portare questo dono. L'imperatore disse «Affrettatevi, Sua Altezza ne avrà urgente bisogno!» «Ai vostri ordini, ecco il pacco!» L'ufficiale batté i tacchi. Il vento freddo mi ricacciò le lacrime negli occhi e gli porsi la mano. «Ringraziate Sua Maestà e salutatemi Parigi!» Poi dovetti salire a bordo. Nella cabina aprimmo il pacco col dono dell'imperatore. Mi si fermò il cuore. Una pelliccia di zibellino, la più preziosa pelliccia che io abbia mai veduta. «Ma è una delle 3 pellicce dello zar!» bisbigliò la flotte estasiata. Tutti hanno udito parlare delle 3 pellicce di zibellino che lo zar regalò all'imperatore. Una l'ha data Giuseppina, la seconda alla sua prediletta, Paulette, e la terza... Sì, la terza ora è qui sulle mie ginocchia, perché ne ho così urgente bisogno. Ho freddo lo stesso. I mantelli da generale in giorni lontani mi hanno scaldata di più. Il cappotto di Napoleone in quella notte di temporale, il mantello di Giambattista in una piovosa notte di Parigi... Non erano ricamati d'oro come i mantelli dei generali di oggidì, erano ruvidi e miseri e mal tagliati, ma erano le uniformi della giovane, valorosa Repubblica. Altalenammo 3 ore da Niborg a Korsør. A Korsør non ci potemmo riposare neppure un giorno perché dovevamo arrivare a Copenaghen il 17 dicembre. Il re di Danimarca ha preparato tutto per il ricevimento. Sarà data in onore di Vostra Altezza una cena di gala con relativo concerto, mi spiegò il conte Brahe. In questa stagione in Danimarca alle 5 del pomeriggio è già buio. Ci stipammo tutti insieme in una carrozza per scaldarci. Raccontateci qualche cosa del re di Danimarca, conte Brahe, dissi io. Si chiama Federico, non è vero? Tutti i re danesi si chiamano Federico, o Cristiano, proclamò il colonnello Villat. Federico? Re Federico IV, disse il conte Brahe con fervore. Anche costui ha cercato di farsi nominare re di Svezia, mi venne in mente. E quanti anni ha questo Federico? È sui 40 ed è molto amato dai suoi danesi perché ha abolito la servitù della gleba, ci riferì il conte Brahe. Se non ci fosse stata la rivoluzione francese, oggi in Europa avremmo soltanto dei popoli schiavi, disse Villat. Come si chiamava il padre dell'attuale re di Danimarca? Beh, siccome il re da adesso si chiama Federico, suo padre deve per forza essere stato un cristiano, affermò Villat. Non per forza, ma lo era, l'infelice Cristiano VII. Perché infelice? Perché sua moglie lo tradiva? Si informò la Laflotte. Non proprio per questo, ma perché non era mentalmente proprio, voglio dire, si crede che fosse, ecco, debole di mente, oppure, insomma, pazzo, direbbe Napoleone, sentenziò Villat. Non solo la Casa Vasa, anche in Danimarca, incominciava la Laflotte. Madame, voi uscite dai limiti, la ripresi io in fretta e mi strinsi di più nella pelliccia. Dovrà Oscar sposare una principessa di un'antica stirpe reale, pensai. Avevo i brividi. Dobbiamo fermarci e trovare dell'acqua calda per gli scaldini di Sua Altezza, propose la Laflotte. Io scossi il capo, non tremavo soltanto per il freddo, tremavo per l'angoscia. Sono tante le ombre che dobbiamo scacciare. La serata a Copenaghen passò come un sogno confuso. Il piccolo castello è appena da 16 anni abitato dalla famiglia reale. Alla luce delle torce vidi una graziosa costruzione rococò, invitante e gentile. Ero irrigidita dal freddo e dalla stanchezza. Maria mi faceva il massaggio alle gambe mentre Yvette mi stava pettinando. Indossai uno dei miei abiti bianchi e domandai di Oscar. Maria mi disse che il ragazzo non poteva più tenere gli occhi aperti. Allora Oscar deve andare a letto, comandai. Maria scomparve con quest'ordine, ma subito dopo si fece annunciare il conte Brahe. Il principe erede deve assolutamente partecipare al pranzo di gala, disse tranquillamente. In fatto di educazione di bambini alle vostre vecchie corti non si capisce un'acca, anche per questo quasi tutti i re sono pazzi, risposi furente. Il conte Brahe non mi diede risposta, mi guardò soltanto con aria di rimprovero. Fate vestire il bambino, sospirai. L'uniforme dei cadetti svedesi che ha mandato mio marito. Quando ebbi terminato di vestirmi, Maria mi porse un bicchiere di champagne. Lo vuotai, ma la mia grande tristezza non mi abbandonò. La coppia reale danese fu molto cortese con me. I due sovrani parlavano magnificamente il francese e manifestarono la loro grande ammirazione per l'imperatore di Francia. Il re mi pregò con insistenza di visitare il giorno appresso le rovine causate a Copenaghen da un bombardamento della flotta inglese. Io lo promisi solennemente. Più volte durante la cena il re dichiarò di sentire profondamente con Napoleone che l'Inghilterra è il nostro comune nemico ereditario. Ed ora, da quasi 3 giorni, ci troviamo in questa cittadina di Helsingør dalla quale si può vedere la Svezia, sempre che non ci sia la nebbia. Ma c'è la nebbia! E il mare è così grosso che il conte Brahe rimanda sempre la traversata. Vostra Altezza non può arrivare in Svezia col mal di mare. Dall'altra parte del Sund ci sarà una grande folla di popolo che vorrà vedere la nuova principessa ereditaria. Aspettiamo. La gente di commercio Glørfelt, che abita qui, mi ha pregato di far da madrina al suo bambino e di dargli un bel nome. Ho chiamato il lattante Jules Désiré Oscar perché sentivo proprio una grande nostalgia di Giulia. Poi con Oscar Ho visitato la fortezza di Kronborg e mentre attraversavamo il fossato tuonarono improvvisamente i cannoni che ci salutavano. L'ala flotta, che fa sempre pompa della sua cultura, mi ha raccontato che qui una volta dimorò un principe danese che si chiamava Amleto e che assassinò il proprio zio perché costui, al tempo suo, non soltanto aveva fatto uccidere il re, padre di Amleto, per portare lui la corona, ma aveva anche sposato la bellissima regina, madre di Amleto. Si dice che in questo castello apparisse lo spettro del padre ucciso. «È stato molto tempo fa?» domandai naturalmente. Ma Madame Laflotte non lo sapeva. Sapeva soltanto che un poeta inglese ha scritto su questo argomento una tragedia. Io ringrazio il destino che non mi obbliga a vivere in questo castello di fantasmi. E naturalmente ho subito richiamato Oscar, che tutto entusiasta stava esaminando i cannoni sul bastione. Ma lasciate stare lì il ragazzo, disse Villat. No, qui ci si sente. Domani passeremo in Svezia. La nebbia c'è sempre, ma il mare è più calmo. Io sto per l'ultima volta studiando l'elenco delle signore e dei signori che mi riceveranno a Helsingborg. La mia nuova dama di corte, una contessa Carolina Levenhaupt, una damigella di corte, Mariana Koskull. Lo scudiero di corte, barone Reinhold Adelsferd, i ciambellani, conte Eric Piper e Sixten Sparre, e finalmente un nuovo medico personale che si chiama Pontin. Le mie candele sono consumate. Sono le 4 del mattino. Devo cercare di dormire. Giambattista non mi è venuto incontro. Soltanto qui ho appreso che Napoleone il 12 novembre ha mandato un ultimatum al governo svedese. O la Svezia entro 5 giorni dichiarerà guerra all'Inghilterra o si troverà essa in guerra con la Francia, la Danimarca e la Russia. A Stoccolma si è riunito il Consiglio di Stato. Tutti gli occhi erano rivolti al nuovo principe ereditario. Ma Giambattista dichiarò: «Signori, vi prego di dimenticare che sono nato in Francia e che l'imperatore ha ancora in sua mano ciò che mi è più caro al mondo. Signori, desidero non partecipare a questa riunione del Consiglio di Stato per non influire sulle vostre deliberazioni». Ora capisco perché i signori dell'ambasciata di Svezia a Parigi esigevano che Oscar ed io affrettassimo la nostra partenza. Il Consiglio di Stato svedese si decise per la guerra contro l'Inghilterra. Il 17 novembre gli svedesi consegnarono agli inglesi la loro dichiarazione di guerra, ma il conte Brahe, che ha già parlato con alcuni svedesi, mi ha rivelato: «Sua Altezza Reale, il principe ereditario, ha spedito a Londra un corriere segreto con la preghiera di considerare questa dichiarazione di guerra come una formalità. La Svezia desidera continuare il suo commercio con l'Inghilterra e propone che d'ora in poi le navi inglesi che entrano nel porto di Göteborg battano bandiera americana». Invano mi torturavo il cervello su questi argomenti. Napoleone avrebbe potuto trattenere come ostaggio Oscar e me. Invece ci ha lasciati partire e mi ha mandato anche una pelliccia di zibellino perché pensava che avrei avuto freddo. Invece Giambattista prega il Consiglio di Stato di non avere nessun riguardo per la sua famiglia. La Svezia per lui conta di più. La Svezia è ciò che a lui più importa nel mondo. Da tutte le parti mi si fa sapere con quanta passione gli svedesi aspettino il nostro ragazzo. Se Oscar dormisse solo, potrei andare da lui nei momenti d'angoscia. Io mi lascio sospingere tra la nebbia e il gelo per consegnare a loro mio figlio, e neppure so se Oscar sarà felice. Forse che i principi ereditari lo sono. Helsingborg, 22 dicembre 1810. Sono giunta oggi in Svezia. I cannoni del forte Kronborg a Helsingør tuonavano quando noi salimmo sulla nave da guerra svedese. L'equipaggio era sull'attenti. Oscar si portò la manina al tricorno e cercò di sorridere. C'era ancora una gran nebbia. Il vento gelido mi ricalciava negli occhi le lacrime, perciò andai a sedermi in cabina. Oscar invece volle restare in coperta ad esaminare i cannoni. «E mio marito davvero non è venuto?» domandai per la centesima volta al conte Brahe. Durante tutto il pomeriggio erano giunti a Helsingør da Helsingborg dei battelli con messaggi per informarlo di tutti i particolari del ricevimento. «Gravi risoluzioni politiche trattengono Sua Altezza Reale a Stoccolma. Si attendono nuove richieste da Napoleone». Tutto un mondo sembra interporsi tra questa nebbia gelida e la cheta pioggia invernale che scende a Parigi. Le luci danzano nella Senna. Un mondo separa Giambattista da Napoleone. E Napoleone esige. Un cappellino di velluto verde con la rosa di seta rossa mi stava bene. Il cappotto di velluto verde serrava la mia persona e mi faceva apparire un po' più alta di quello che sono. Nel manicotto di velluto verde gualcivo il foglietto con i nomi dei funzionari della corte svedese che mi attendevano, le dame di corte Levenhaupt e Koskull, i ciambellani Piper e... Oh, non riuscirò mai a tenere a mente questi nomi. «Vostra Altezza è inquieta, non è vero?» disse sottovoce il conte Brahe. «Chi sorveglia, Oscar?» domandai. «Non vorrei che cascasse in acqua!» «Oh, il vostro colonnello Villatte lo vigila!» rispose Brahe. Le parole «il vostro» erano dette in tono sarcastico. «È vero che Vostra Altezza ha indossato delle mutande di lana?» domandò inorridita Madame Laflotte. Lottava di nuovo contro il mal di mare. Sotto la cipria rosa il suo viso aveva dei riflessi verdognoli. «Sì, Maria le ha comperate in città. È stata un'idea sua. Ne aveva viste nelle vetrine. Penso che in questo clima ci vogliano delle mutande pesanti. Maria è così saggia. È probabile che laggiù, in quel porto glaciale, ci tocchi stare in piedi parecchio ad ascoltare dei discorsi. Del resto nessuno guarda sotto le gonne.» Poi mi pentii di questa frase. Una principessa ereditaria non dice di queste cose. La contessa, diedi un'occhiata al mio foglio, la contessa Levenhaupt, la mia nuova dama di corte, ne sarebbe certo scandalizzata. Ora si vede chiaramente la costa svedese, se Vostra Altezza crede di salire in coperta, mi propose il conte Brahe, e aspettava che mi precipitassi in coperta. Ho tanto freddo e sono stanca, risposi, e mi raggomitolai ancora di più nella pelliccia di Napoleone. «Perdonate, certo», mormorò il giovane svedese. Colpi di cannone. Sobbalzai, sgomenta, sebbene ormai dovessi essere avvezza alle cannonate. I primi colpi partirono dalla nostra nave e immediatamente la costa rispose. Yvette mi porse uno specchio. Mi passai sulla faccia il piumino della cipria. Diedi ancora un po' di rossetto alle labbra. Sotto i miei occhi stavano ancora le ombre delle ultime notti nelle quali ho dormito male. «Vostra Altezza ha un bellissimo aspetto», mi tranquillizzò il conte Brahe. «Ma io ero incredibilmente intontita. Li deluderò, pensavo. Ci si immagina una principessa come un personaggio di fiabe, ed io invece non sono che la ex cittadina Eugenia Desirée Clary». Fra il rombar dei cannoni mi recai in coperta e mi collocai accanto a Oscar. «Guarda, mamma, questo è il nostro paese!» esclamò il fanciullo. «Non il nostro paese, Oscar, il paese del popolo svedese. Non dimenticartelo mai, non dimenticartelo mai!» mormorai e presi la sua mano. Un suono di musiche militari giungeva a tratti sino a noi. Fuori dalla nebbia splendevano abiti femminili sgargianti e spalline dorate. Emerse un mazzo rosa. «Rose? Garofani? Qui d'inverno devono costare un patrimonio!» «Non appena la nave attraccherà, correrò oltre la passerella e porgerò la mano a Vostra Altezza per aiutarla a scendere sulla banchina. Prego il principe ereditario di tenersi immediatamente dietro a Sua Altezza Reale. Giunti a terra, prego il principe di collocarsi a sinistra di Sua Altezza Reale. Io starò subito dietro a Sua Altezza Reale», furono le affrettate istruzioni di Brahe. «Sì, subito dietro di me, per proteggermi. Il mio giovane cavaliere di antica stirpe svedese vuole impedire a costoro di deridere la figlia della borghesia. Hai inteso, Oscar? Guarda, mamma, quanti uniformi svedesi! Un reggimento intero, guarda!» «Ed io dove mi devo mettere, caro conte Brahe?» domandò la flotte. E io mi voltai. «Tenetevi sullo sfondo con il colonnello Villat. Temo che non siate la persona più importante del ricevimento. Lo sai come chiamano a Helsinger il conte Brahe, mamma? Ammiraglio Brahe!» disse Oscar. Tuonavano i cannoni. «Ma perché mai, Oscar, il conte è ufficiale di cavalleria?» «Eppure lo chiamavano ammiraglio della flotte», dichiarò Oscar tra due cannonate. «Lo capisci, mamma?» Dovetti ridere. Ridevo a viso aperto nel momento in cui la nave gettava l'ancora in Svezia. «Kronprinzessan skall leve!» si gridava tra la nebbia. Kronprinzessin, Harve Prinzen! Erano tante voci, gridavano ritmicamente, ma la nebbia inghiottiva i visi del popolo dietro il cordone dei soldati. Ravvisai soltanto i lineamenti dei funzionari di corte, rigidi, senza sorrisi. Mi squadravano, squadravano il bambino. Il mio riso si congelò. Venne gettata la passerella. L'inno svedese che già conosco risuonò. Non un trascinante canto di guerra come la Marsigliese, ma un corale più severo, solenne. Il conte Brahe mi passò davanti e balzò a terra. La sua mano si tese verso di me. Rapida e mal sicura mi accostai a quella mano, poi la sentii sotto il mio braccio. Sentii vicino a me Oscar. I fiori luminosi erano rose, mi vennero incontro. Un vecchio asciutto in uniforme di maresciallo svedese me li porse. Il governatore della Sconia, conte Gian Cristoforo Toll, bisbigliò il conte Brahe. Due chiari occhi di vegliardo scrutarono il mio volto. Presi da lui le rose e il vecchio si chinò sulla mia destra. Poi curvò il capo davanti a Oscar. Vidi le dame nei loro mantelli di seta, guarniti di ermellino e di castoro, sprofondate nell'inchino di etichetta. Le schiene curve delle uniformi. Incominciò a nevicare. In fretta porsi la mano ad uno dopo l'altro. I volti stranieri si sforzavano di comporre un formale sorriso. Il sorriso si faceva più intenso quando Oscar dava loro la mano. Il conte Toll mi diede il benvenuto in un aspro francese. Fiocchi di neve improvvisamente ci turbinarono intorno. Voltai il capo e guardai Oscar. Estasiato contemplava il turbinio bianco. E ancora l'inno. Così diverso, così solenne. Dei fiocchi di neve si posarono sul mio volto mentre immobile me ne stavo ritta nel porto di Helsingborg. Nel momento in cui cessò l'inno, la voce infantile di Oscar ruppe il silenzio. Staremo tanto bene qui, mamma. Guarda, nevica. Come mai il mio bambino dice e fa sempre cose opportune al momento opportuno, proprio come suo padre? Il vecchio mi porse il braccio per accompagnarmi alle carrozze di corte in attesa. Il conte Brahe si tenne sempre alle mie spalle. Io guardavo il vecchio ostile, guardavo i volti stranieri dietro di lui, vedevo i chiari, duri occhi penetranti, critici. Vi prego di essere sempre buoni col mio ragazzo, dissi quasi senza voce. Queste parole non erano nel programma, mi erano sfuggite e probabilmente erano goffe e contrarie all'etichetta. Un'impressione di stupore, di grande stupore, passò su tutti i visi, un misto di commozione e di alterigia. Mi sentii fiocchi di neve tra le ciglia, sulle labbra, e nessuno vide che piangevo. La sera stessa, mentre mi svestivo, Maria disse: «Ho avuto ragione, Eugenia? Parlo delle mutande di lana. Avresti potuto lasciarci la pelle in quella cerimonia del porto».